Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Germanene, silicene, più di recente il fosforene, tutti questi ene sono figli del più famoso grafene, come il grafene sono materiali bidimensionali, fogli composti da un singolo strato di atomi o molecole. La scoperta nel 2004 del grafene, costituito da un foglio di atomi di carbonio disposti a nido d'ape, ha aperto la strada per mettere a punto tutta una nuova famiglia di materiali, tutti più o meno bidimensionali e con caratteristiche, anche qui un po' tutti affascinanti, in qualche caso addirittura uniche. Del grafene, da cui ci si aspetta una sorta di rivoluzione, delle sue prime applicazioni abbiamo già parlato altre volte. Stasera ci occuperemo di uno dei figli più promettenti del grafene, il fosforene, che si ottiene dal fosforo nero. E lo facciamo a partire da una ricerca pubblicata sulla rivista Advanced Materials, ricerca realizzata dal CNR Nano in collaborazione con l'Università della Calabria di Pisa e guidata dalla professoressa Miriam Vitiello, ricercatrice del CNR Nano e docente alla Normale di Pisa. Buonasera Vitiello, benvenuta. Buonasera. Senta, partiamo dal vostro articolo nel quale spiegate di aver realizzato, proprio grazie al fosforene, un particolare dispositivo nanometrico, quindi microscopico. Si tratta di un rivelatore di luce infrarossa, diciamo, per la precisione si tratta di radiazioni nel campo dei terahertz. Ecco, partiamo da qui. A che cosa può servire un sensore di questo tipo? Allora, la radiazione terahertz, ovvero radiazioni di frequenze comprese tra le microonde e l'infrarosso, oscillazioni di un milione di milioni al secondo, è una radiazione particolarmente interessante per svariati campi applicativi. Innanzitutto il terahertz è una radiazione non invasiva, quindi che non provoca danni ai tessuti e alle cellule, quindi può avere svariate applicazioni in campo biomedicale e farmacologico. È una radiazione fortemente sensibile al quantitativo d'acqua nei tessuti e nei materiali, può passare attraverso abiti, indumenti e quindi nel campo della sicurezza può servire per rilevare oggetti pericolosi. Body scan, cose di questo tipo. È una radiazione che ha delle righe di assorbimento, quindi delle impronte spettrali particolari rispetto a narcotici, esplosivi e gas tossici. Quindi consente di identificarli, perfetto. Esatto, consente di identificarli. Noi abbiamo fatto un'applicazione concreta di questi sensori al fosforene, due applicazioni target. Abbiamo preso delle pasticche di farmaci e abbiamo iniettato un solo microlitro d'acqua in una di queste pasticche. Il sensore al fosforene è in grado perfettamente di identificare la zona della pasticca di farmaco che ha questo quantitativo anomalo di acqua. Che vuol dire, per esempio, che quella pastiglia è deteriorata, esatto. Abbiamo anche provato a introdurre all'interno di una tavoletta di cioccolata una piccolissima pagliuzza dell'incapsulamento di alluminio di questa tavoletta di cioccolato, quindi il rivestimento con cui vengono impacchettate le tavolette di cioccolato, e il sensore al fosforene rivela anche questa pagliuzza di alluminio nascosta dietro una delle barrette di cioccolato. E veniamo al fosforene. Ecco, che cos'ha di speciale che il grafene non ha e che vi ha consentito appunto di costruire questo dispositivo? Il fatto peculiare del grafene è la capacità di condurre elettricità sempre, perché è appunto privo della cosiddetta banda energetica proibita, che è tipica dei semiconduttori. Che è, diciamo, il meccanismo fisico di base anche di tutti i dispositivi elettronici, la presenza di questa cosiddetta banda proibita. Esatto, il grafene ne è privo e quindi ha una conducibilità molto elevata, che diventa però un limite pratico per molti dispositivi elettronici. Il fosforene, al contrario, ha questa banda proibita ben definita e può quindi condurre elettricità soltanto quando gli elettroni assorbono un quantitativo sufficiente di energia attraverso la luce, il calore oppure altri mezzi. Ecco, quindi in pratica, se uno deve fare un rivelatore, siccome il grafene reagisce a qualunque roba gli si butti sopra, non si capisce che cosa gli è arrivato sopra. Invece questa banda proibita fa sì che il fosforene reagisca solo a certi stimoli e ad altri no, in modo quindi più specifico. Un livello di controllo maggiore sul comportamento elettrico del materiale, che può essere facilmente attivato o disattivato a nostra scelta. Perfetto. Un'altra caratteristica peculiare di questo materiale è che, a seconda dell'orientazione cristallografica di questo fiocco di fosforene, la luce che va a incidere sul fiocco di fosforene può attivare un meccanismo fisico piuttosto che un altro. a seconda dell'orientazione. Questa forte anisotropia del fiocco può diventare estremamente promettente per disegnare ad hoc le proprietà fisiche di questo sensore, che diventa molto versatile e consente di fare in questo modo tante cose diverse. Senta, esatto. A quando l'uso del fosforene a livello, diciamo, industriale? Mi pare di capire che il fosforene oggi sia ancora un materiale che si sta studiando in laboratorio, applicazioni che stanno per venire fuori non ne conosco, però magari mi sbaglio. No, diciamo che a livello fotonico ed optoelettronico la nostra è stata la prima dimostrazione pratica di un dispositivo attivo in fosforene usato per un'applicazione killer quale quella del controllo di qualità e del controllo agroalimentare. Stiamo lavorando su delle ottimizzazioni tecnologiche dei nostri sensori in modo tale da poterli poi esportare in maniera concreta sul mercato applicativo, ma uno dei vantaggi chiave è che già questi sensori funzionano a temperatura ambiente, quindi questo li rende, oltre ad essere compatti, perché si parla di dispositivi di dimensioni nanometriche, certo, operando a temperatura ambiente promettono un rapidissimo impatto sul mercato. Quindi in qualche anno, insomma, è realistico vedere le prime applicazioni, forse? Direi di sì. Va bene, grazie professoressa Vitiello. Grazie. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.